una questione che si ripropone ogni anno e che non è nuova e che si conosce, ma che ogni anno non gode dell'attenzione poi anche di misure che dovrebbero essere messe in campo per affrontarlo strutturalmente questo problema. Lo si conosce, ogni anno tratta specifiche soprattutto di ritorno verso le isole, ma anche verso il meridione in generale, subiscono degli incrementi che arrivano addirittura al 72%, con dei prezzi che sono veramente proibitivi per chi deve vuole tornare a casa per festeggiare con le proprie famiglie. Ci sono degli esempi che sono veramente cristallizzanti del problema, quindi per esempio un volo Bologna-Palermo sui 300 euro, Bologna-Catania siamo sui stessi dati. Il diritto di tornare a casa fa parte integrante del diritto allo studio, della possibilità dello studente fuori sede di vivere anche i propri affetti, la propria dimensione familiare. È assurdo che il fenomeno degli studenti fuori sede, così come anche dei lavoratori, perché poi chiaramente è un precipitato anche su quella fetta di lavoratori fuori sede, è assurdo, come dire, che anche questo tipo di fenomeno non venga attenzionato soprattutto dal governo. Quindi, purtroppo la popolazione fuori sede molto spesso, anzi sempre, vive una questione di invisibilizzazione da parte del governo. Lo vediamo sulla questione abitativa, lo vediamo sul voto fuori sede, lo vediamo anche come dire, quando si sceglie poi di ignorare questo fenomeno che ormai è più che conosciuto e riconosciuto, ecco. E tutto questo avviene in un contesto in cui appunto già il caro vita morde anche su altri aspetti. Tu citavi la casa e ovviamente sono aumentate le spese un po' per tutto. Assolutamente, diciamo, il caro vita, così come i costi dell'università, che non sono mai stati accessibili, chiaramente si configurano all'interno dello stesso calderone. Bisogna entrare nell'ottica che l'università, l'essere diciamo studente fuori sede, rappresenta un costo che viene calcolato anche rispetto a questo tipo di dinamiche qua. Non può più essere possibile che nel 2023 veramente può diciamo non solo scegliere l'università che più si desidera, ma anche proprio partecipare ad un percorso universitario solamente chi poi di base se lo può permettere, perché anche questi costi rientrano all'interno dei calcoli finanziari delle famiglie, dei nuclei familiari, diciamo, dello studente che magari si deve anche mantenere da solo e che magari decide anche di non tornare a casa perché banalmente non se lo può permettere. E quindi questi sono ragionamenti ampi che tengono dentro non solo il caro trasporti, ma anche chiaramente tutta la questione di quanto costa oggi frequentare un'università e quella che si desidera secondo appunto le valutazioni di ogni studente e studentessa. Ora il tema è investire su una fascia comunque di questo paese studentesca, ma anche di studenti lavoratori che evidentemente, ripeto, all'interno di questo paese vengono invisibilizzati e su cui non ci vuole formulare delle risposte in merito, ecco. Concretamente, ad esempio, questo problema specifico come si potrebbe risolvere? Con degli sconti, agevolazioni? Ci sono dei buffi tentativi in realtà, per esempio nella regione siciliana si sta provando a immaginare una scontistica per studenti e per lavoratori. Ora il problema è che nella formulazione bisogna essere chiari, perché molto spesso si lascia veramente molta decisionalità a quelle che sono le compagnie private di poi realizzare, diciamo, il prezziario che più immaginano, più desiderano, anche perché, come dire, già assistiamo a degli incrementi, quindi uno sconto sull'incremento non è particolarmente risolutivo. Servono delle misure di scontistica sicuramente per studenti fuori sede e per lavoratori fuori sede, ma in generale, cioè il tema del caro trasporti a ridosso dalle festività apre, come dire, un dibattito grandissimo su questo paese, che poi non sta solamente su questo tema, ma che è più ampio, ovvero sul diritto alla mobilità, soprattutto nel come si attraversa il nostro paese, soprattutto sulle isole, soprattutto nel meridione. E quindi immaginare delle soluzioni sul trasporto che siano veramente di reimmaginazione, di accessibilità, di gratuità poi del trasporto, questo è il momento di immaginarlo, ecco.